Dobbiamo credere a occhi chiusi. Ciò non toglie che noi sentiamo che quello che gli occhi non riescono a vedere perché ne sarebbero accecati, lo sentiamo nel cuore. Anche quello fa dei brutti scherzi. Quando si fa un'esperienza trascendente, l'esperienza comune, si sente che il cuore scoppia di gioia. Questa esperienza di Dio noi l'abbiamo fatta a occhi chiusi. E dice Gesù Cristo, beati voi che avete creduto a occhi chiusi. Così come a Tommaso, il grande apostolo, martire. Oh Tommaso, tu hai creduto perché hai veduto a occhi aperti. Ma fortunati coloro che crederanno a occhi chiusi. Che significa? Che c'è un grande merito per chi crede a occhi chiusi. Quel voler credere a occhi sbarrati, io credo solo se tocco, se vedo, è segno di diffidenza. E da piccoli non ci ricordiamo, forse un minimo ricordiamo, i più bei sonni, i più bei riposi, li prendevamo sul petto di nostra madre, a occhi chiusi. Eravamo così felici in braccio a nostra mamma, a occhi chiusi. Non la vedevamo la mamma, gli occhi erano chiusi. Ma eravamo certi che eravamo nella mamma, immersi nel suo amore. A occhi chiusi, volete sperimentare l'amore di Dio? Sperimentatelo come i bimbi a occhi chiusi. Fidatevi. Le cose vanno male, fidatevi di Lui a occhi chiusi. Ho dei problemi a occhi chiusi, fidati di Dio. Ma ho delle sofferenze che mi prendono il mio campo psicologico, mi prendono anche il mio spirito a occhi chiusi. Fidati, mi disse il vescovo, in rappresentanza di Cristo. Fidati, io ripeto a voi questa parola, la sussurro al vostro orecchio, vorrei imprimerla nel vostro cuore. Volete vedere meraviglie nella vostra vita? Fidatevi, a occhi chiusi, di Dio. Anche quando ci trovassimo nelle noie, nei pasticci, nei grossi problemi, ci trovassimo là, in un ospedale, in una clinica, in una sala operatoria, ci trovassimo al valico, il valico, tante volte nominato, il valico della morte, oltre il quale ci aspetta Dio a braccia aperte, anche allora, sempre a occhi chiusi, e sentirete che Dio non vien meno. E Dio a vostra disposizione metterà le sue braccia, il suo cuore, il suo paradiso. Così sia.